Luponer Summer Spurgo. Jack of all- Ed eccoci qua, ce l'abbiamo fatta ad arrivare alla fine dell'estate senza saltare nemmeno un appuntamento di Lupon Air Summersburgo per quelli che erano orfani di Lupon Air, che normalmente in stagione autunno-inverno ha la voce di Vanni e di Flamì. Ora c'è solo quella di Vanni, Flamì va salutato all'inizio, ma da giovedì prossimo ritorniamo a fare le trasmissioni in FM da Radio R, quella vera, chiosolo di Sant'Agostino qui a Recanati, ma soprattutto 89.1 FM e più tutte le varie robe del web che verrete a sapere naturalmente, perché adesso me ne va di ripeterle, perché questa è Lupon Air Summersburgo, le faccio dal salotto di casa. Abbiamo ascoltato ora per iniziare Null Split da Parigi, Francia. È una band che fa un misto di EBM e grunge, se vogliamo, cioè alternative rock, synth punk EBM. E questo brano che abbiamo ascoltato era Matching Bodies, il loro ultimo singolo uscito a giugno, nella versione Night Mix. Ora passiamo ad altro, decisamente altro, con i Decayed, che è una band di black metal, thrash black metal da Portogallo, da Parede, che è provincia di Lisbona. Portogallo è un gruppo attivo dal 1990 come Decay, ora diventati Decayed perché giustamente sono decaduti pure loro. E la cosa che andiamo ad ascoltare è tratto dal loro split tre vie Heralds of Duat insieme a Cemetery Lights e Caixão. Però noi ascoltiamo i Decayed con il brano Beneath the Sands, mi sembra, sì, vorrei dire cazzate. Beneath the Sands dei Decayed. Yeah. Lupo Nero Sammersburgo. We'll be right back. invece dalla Grecia, da Tessalonica. Arriva Alpha Sect, che è un progetto di George McCall, che fa mischia electronic body music, electro cattiva e con influenze punk, così dichiara egli stesso. Abbiamo ascoltato il brano Your A-Side Killed Me, il tuo lato A mi ha ucciso, dall'album La Naissance de Morco. Che cacchio c'è scritto qua? Vabbè, dalla nascita di qualcosa. Your A-Side Killed Me, e il suo era Alpha Sect. Ma ora non piangiamoci addosso, urliamoci addosso con i Votto, una band screamo, così è quello che chiamano i giovani, sono vecchio io, scusate. Da Piacenza arrivano questi Votto, screamo band, che dall'ultimo no, andiamo a pescare l'ultimo album? Sì, infatti, dall'album gli ultimi istanti delle nostre vite precedenti, ascoltiamo il brano La conquista dell'inutile. Loro sono i Votto, Votto. Poner Summer Spurgo. You better whip up paper before you die. You better whip up paper before you die. The whole team whippers. Don't eat that. You better whip up paper before you die. Find a life in a motherland. Me, I'm old man. life in the motherland. Me and my old man find a life in the motherland. Perché che fai sotto Covid, no? Sei in lockdown dentro casa a South London, in Inghilterra, e che fai? Butti su una band di electropunk. E questo che è successo ai Fat Dog, che pubblicano adesso, proprio di pochi giorni fa, l'uscita dell'album Woof, l'album di debutto per la Domino Records, alla faccia. E abbiamo ascoltato il brano... Wither, loro erano i Fat Dog, e ora passiamo alle primizie locali, perché anche si sono spostati in Emilia Romagna, di Bologna Ferrara dichiarano, non lo sappiamo, che c'è gente dei Castello, dei Castelfidardo, nei T-Rex Squad, band nata per scherzo, con questo nome che si ritrova adesso, però che poi un po' li, diciamo, li famo più sul serio, un gruppo punk, diciamo anche oi punk, che si chiama T-Rex Squad. Beh, se voi prendete sul serio la Sed, è quello che vi meritate, il vostro destino. Però penso che questo disco che hanno fatto adesso effettivamente va un attimo preso sul serio. Si intitola Manifesto, anzi hashtag Manifesto, e da quest'album ascoltiamo il brano d'apertura, dopo l'intro, che si intitola Rifiuto, featuring Ivan Di Marco dei Beatles, T-Rex Squad. Per quel che era, ma anche per quel che è stato, non prendo fiato. Luponer, Summerspurgo. Cambiata la canzone francese negli ultimi anni, vero? Abbiamo ascoltato i Horse Nation da Besançon, Francia. È un gruppo grindcore, sì, effettivamente si può dichiarare grindcore. Il brano che abbiamo ascoltato era Roadkill, tratto dal loro album, non neanche album, un singolo, Split con gli Arcagatus, anche perché per fare un album con musica del genere dovresti farne 70-80 di pezzi. Questi non è che hanno tutta sta voglia. Chissà invece la voglia che hanno i Teddy Daniels da Cagliari, che fanno grunge, misto, cioè un po' grunge, poi noise rock, un po' post-punk. E hanno pubblicato uno split con un'altra band abbastanza sfigata, ci viene promossa da Ora Sonora. E noi l'abbiamo ascoltato, questo split, ci è piaciuto questo pezzo. Si intitola Alpha, loro sono i Teddy Daniels, che non è uno Teddy Daniels, ma è una band Teddy Daniels, e vengono da Cagliari. On Air Summerspurgo. Sono tutto un fremito dopo aver ascoltato X dei Tassel da Phoenix, Arizona nel remix di Contravoid, perché c'è sempre bisogno di un mix di Contravoid quando vi sembra di averne avuto abbastanza di Contravoid. No, non ce n'è mai abbastanza di Contravoid. Loro però erano i Tassel e niente, siamo stati contenti con X, quella roba lì, insomma. Adesso passiamo ad altro, ma non troppo altro, perché più o meno il genere è sempre quello del tra IBM e Dark Electro. La Metropolis ci propone il nuovo album dei Fixate Sedate, il nuovo album che in realtà è un rimpasto di, credo di aver capito che si tratta di un rimpasto di vecchie registrazioni rimesse a lucido per il 2024. Ascoltiamo una selezione. C'è un brano che è questo, il club edit di Postmortem Apocalypse da Fixate Sedate, che viene per la cronaca da Germania, da Wiesbaden per l'esattezza. Fixate Sedate. Has God spoken to you yet? Spoken to you yet? We'll be right back. Scrive R010R, però io fino a prova contraria lo pronuncio rotor. Dovete venire qua e dirmi no, non si dice rotor. Fino a quel momento io dirò rotor. È il progetto elettro di Michael Renfield, già conosciuto per altre produzioni estremamente cacciarone, tipo il Noise Process, che pure peggio. Invece questa è una cosa tutto sommato presentabile, dall'album più recente di Rotor di R03 abbiamo ascoltato il brano Dissociative State, e così, ridendo e scherzando, siamo arrivati al termine non di questa puntata ma di Luponer Summer Spurgo nel suo totale, perché adesso riprenderemo con la programmazione regolare di Luponer. Non è escluso che se si ammucchiano le robe buttiamo su pure un Luponer Winter Spurgo, ma per ora Luponer Summer Spurgo è ito. Ci siamo divertiti, è stato bello, e ora vi meritate i Hot Garbage, monnezza calda, dall'album Precious Dream. Ascoltiamo il brano Look at My Phone. Chi sono questi? È un gruppo di Toronto, Canada, fa un po' di rock psichedelico, un po' di post-punk, un po' di desert rock, un po' di garage, un po' di darkettonismo, mischiano il cazzo che gli pare. E ascoltiamo quindi questi Hot Garbage con il brano Look at My Phone, e ciao a tutti da Luponer Summer Spurgo! Lupo Nero Summersburgo.